Rassegna Stampa Europa. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Abbiamo questo appuntamento appunto del sabato con la Rassegna Stampa Europea. E anche questa settimana naturalmente sono stati trattati molto in profondità i temi economici, perché sapete che la Commissione è ancora un po' in fase di assestamento con Jean-Claude Juncker, che ha a che fare primo di tutto con la composizione della sua commissione, che non è ancora fatta, ma poi con tutti i problemi economici, con le richieste da parte dell'Italia, che ha la presidenza del semestre europeo, ma anche da parte di altri paesi, a partire dalla Francia per esempio, di ammorbidire un po' il patto di stabilità e altri vincoli per consentire di dare la priorità alla crescita sull'austerità che vuole per esempio la Germania. E allora, a proposito di Germania, vi segnalo un articolo apparso sulla Frankfurt Allgemeine Zeitung, questo giornale che spesso citiamo, molto serio, di Francoforte, in cui il presidente della Bundesbank, la banca centrale tedesca, Jens Weidmann, ha scritto di ritenere che sarebbe adeguato un aumento dei salari in Germania del 3%. In questa intervista Weidmann ha detto: il mercato del lavoro in Germania oggi è in una situazione di gran lunga migliore degli anni passati. In una serie di settori e regioni abbiamo praticamente la piena occupazione, aumentano le notizie di mancanza di forza lavoro. È nella natura delle cose che le retribuzioni aumentino con più forza rispetto a quando la situazione economica era peggiore. Il citato 3%, ha continuato, facendo riferimento alla proposta avanzata dal capo economista della BUBA, così viene definita la Bundesbank, Jens Ulbricht, deriva dal 2% dell'inflazione e dall'1% della crescita. Weidmann ha poi aggiunto che la Bundesbank non interferisce nel confronto fra le parti sociali sui salari e che però, se gli accordi salariali, che dovessero chiaramente superare un aumento finalizzato alla produttività, danneggiassero la crescita e l'occupazione in Germania, renderebbero un pessimo servizio anche all'Eurozona. E da qui sempre questa un po' questa ossessione, o questo orgoglio anche forse, dei vertici politici economici tedeschi di ricordare che se la Germania va bene l'Europa, e se invece la Germania rallenta, rallenta l'Europa. Comunque questa questione del salario minimo, che ricordo in Italia non abbiamo, e quindi non si può neanche parlare di un aumento del 3%, sappiamo invece che però in Italia gli stipendi e i salari sono in generale fermi da molto tempo, questa questione potrebbe essere una delle tante nuovo inizio, potremmo dire, con Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione, nuovo inizio per le politiche economiche dell'Unione Europea. E su Le Monde, che è un quotidiano francese, è apparsa invece la notizia della chiusura dell'unità. L'avrete visto sicuramente, ve ne sarete accorti, insomma non l'abbiamo citata nella rassegna stampa italiana, per il semplice fatto che da due giorni l'unità non è più in edicola, ha chiuso per una crisi economica. Ieri c'era una bella amaca di Michele Serra, che per l'unità ha lavorato tantissimo tempo, dove spiegava che forse è proprio un fatto da accettare, e cito lui perché è come se fosse parte in causa, però è sicuramente anche difficile da accettare la chiusura di un giornale. E Le Monde scrive: l'unità, lo storico quotidiano della sinistra italiana, abbandona la scena. E Le Monde ricorda che anche in Francia, in tutta Europa, c'è una crisi dell'editoria, sono state molte le vittime, Le Monde stesso ha avuto molti problemi, continua a essere al centro di una ristrutturazione. Però scrive Le Monde: comunque il giorno in cui chiude questo giornale è stata una triste giornata per un giornale che ha fatto la storia del paese. Passiamo a Financial Times, che si è occupato molto, continua a occuparsi della crisi tra Russia e Ucraina, e tra l'altro su questo tema trovate un articolo anche sul Corriere della Sera di oggi, però appunto Financial Times è già da qualche giorno che ne scrive. La crisi tra Russia e Ucraina sta già facendo sentire il suo peso sui conti di alcune delle principali aziende europee, prima ancora che il nuovo pacchetto di sanzioni contro i settori energetico, finanziario e della difesa russi inizino a fare effetto. Ne abbiamo parlato, mi ricordo, proprio due settimane fa di questo, no? delle sanzioni. Financial Times cita aziende come Adidas, Volkswagen, Siemens, Metro, Erste Group, Shell, Total e British Petroleum, che tutte lamentano l'impatto sui propri fatturati del conflitto in atto e delle conseguenti tensioni tra Occidente e Russia. Problemi anche per alcune aziende americane. Visa e Mastercard, ad esempio, si trovano ad affrontare la prospettiva di ulteriori restrizioni imposte al settore finanziario russo, mentre ExxonMobil, che ha in corso progetti di sviluppo nel settore energetico russo attende di capire l'effetto dell'ultima ondata di sanzioni contro Mosca. Quindi sappiamo che gli Stati Uniti hanno scelto prima le sanzioni politiche, poi anche loro hanno sposato quelle economiche, ce ne sono già anche di economiche, ma ci sono anche degli effetti economici negativi che non sono sanzioni magari codificate, ma che comunque sono gli effetti di una crisi geopolitica come quella che c'è tra Russia e Ucraina. Tra l'altro su questo vi segnalo anche, sono apparsi molti articoli, che un altro degli effetti è per esempio sul turismo in Italia dei russi e sugli acquisti dei turisti russi, che hanno sostenuto tantissimo per esempio i marchi della moda e del lusso, e che adesso naturalmente sono crollati. Mi è venuto in mente, leggendo appunto di Visa e Mastercard, che naturalmente possono tracciare tutta la provenienza degli acquisti. A proposito di queste sanzioni, vi segnalo un articolo, dopo quello di Financial Times, anche della Gazzetta Wyborcza, che è un quotidiano polacco. In questo caso è grazie a Press Europe, sapete, uno dei miei siti preferiti, che aveva interrotto le pubblicazioni per mancanza di fondi e ora le ha riprese. E il titolo dell'articolo apparso sulla Gazzetta Wyborcza il 30 luglio è: l'Europa strozza la Russia. L'Unione Europea ha imposto per la prima volta delle sanzioni economiche contro la Russia per il suo sostegno ai separatisti filorussi nell'est dell'Ucraina, ma benché l'elenco delle sanzioni non sia stato ancora annunciato, quello che dicevamo, cioè non sono codificate, però c'è già, comunque ci sono già gli effetti, l'Unione Europea metterà in piedi una squadra di esperti per assicurarsi che Mosca non bypassi queste misure. In un commento, questo quotidiano polacco osserva che i prossimi giorni e le prossime settimane saranno molto difficili per il presidente russo Vladimir Putin, perché le sanzioni costituiscono una disfatta supplementare dopo l'accusa degli Stati Uniti di aver violato il trattato antiproliferazione nucleare del 1987, l'intensificazione dell'offensiva dell'Ucraina contro i separatisti filorussi, dopo che un tribunale arbitrale dell'AIA ha stabilito che la Russia deve pagare 37,3 miliardi di euro di danni per la nazionalizzazione di diversi asset del gruppo petrolifero russo Yukos. E sapete che era stato appunto nazionalizzato perché il suo, anche si era detto, è una vicenda molto complicata, ma perché anche perché Mikhail Khodorkovsky, il fondatore e capo per molti anni della Yukos, era un nemico giurato di Putin, è stato anche in prigione per molti anni, ora è libero e tra l'altro sta cercando appunto di fare la sua parte nel denunciare, diciamo, gli abusi di potere del presidente russo. Ma torniamo anche sempre sulle questioni europee con un quotidiano, questa volta un quotidiano romeno, e perché è di tutto sommato pochi giorni fa, però di nuovo anche qui è già sparita dai giornali, naturalmente l'abbattimento del volo della Malaysian Airlines, e che non è ancora ben chiaro che cosa sia successo, però titola questo quotidiano a Devarul: dopo l'incidente del volo MH17, appunto il volo della Malaysian Airlines che sorvolava i cieli dell'Ucraina, da dove viene la vigliaccheria dell'Europa nei confronti della Russia? E scrive il quotidiano: mentre gli occidentali si interrogano sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro la Russia, accusata di sostenere i separatisti filorussi ucraini sospettati di aver abbattuto il volo MH17, questo quotidiano spiega che le misure di ritorsione economica contro Mosca avrebbero un'incidenza sull'economia dell'Unione Europea, e da qui naturalmente anche questa apparente vigliaccheria, che poi ha dei, potremmo dire così, dei tristi o dei semplici o dei molto reali motivi economici. Ci sono ancora altri naturalmente, questa settimana sono stati tantissimi gli approfondimenti sulla questione del jet dell'aereo abbattuto e le sanzioni economiche, però passiamo magari a un altro argomento. In questo caso riguarda la Grecia, da Katimerini, che è un quotidiano greco, che ci aggiorna su una vicenda che forse molti di noi non avevano neanche sentito o comunque avevano dimenticato. Sono stati assolti due agricoltori che spararono contro i lavoratori immigrati, questo per dire naturalmente che le tensioni dovute all'immigrazione clandestina non sono certo relegate alla sola Italia. Spiega appunto Katimerini che il 30 luglio sono stati assolti in Grecia i due agricoltori che il 17 aprile dello scorso anno avevano sparato contro un gruppo di raccoglitori di fragole del Bangladesh che reclamavano le loro paghe, e ne avevano feriti 28. In un verdetto che da molti è stato già descritto come un oltraggio e una vergogna e che ha scatenato anche già alcune proteste, il proprietario della fattoria e il caposquadra sono stati scagionati da ogni accusa, tra cui c'era anche quella di traffico di esseri umani, perché appunto si trattava di questi lavoratori del Bangladesh che erano immigrati clandestini. A proposito della crisi in Medio Oriente, invece vi segnalo una curiosità dal quotidiano belga De Morgen, che ha fatto questa proposta di mettere un'etichetta con scritto attenzione prodotto nei territori occupati. Il governo belga vuole introdurre un'apposita indicazione sui prodotti importati dai territori palestinesi occupati da Israele. Anche se non è un boicottaggio, si tratterebbe di un forte segnale politico. L'Unione Europea discute da tempo l'introduzione di un marchio speciale per indicare l'origine dei prodotti importati, il famoso Made in, di cui appunto si discute da tantissimo tempo, ma gli stati membri non sono ancora riusciti a raggiungere il necessario consenso. Nel Regno Unito e in Danimarca questa indicazione esiste dal 2009. Ecco, pensate, perché della questione ci siamo occupati molto anche noi, soprattutto per quanto riguarda i prodotti di abbigliamento e tessili. Pensate che l'Unione Europea è l'unico paese dove appunto non esiste questo obbligo, mentre negli Stati Uniti voi comprate una qualsiasi maglietta e c'è scritto, anche se è di un marchio molto famoso, magari Made in China, Made in Romania. In Europa questo lo può fare chi lo desidera, ma non è obbligatorio. E De Morgan dice appunto, visto che tanto discutiamo di Made in, beh, per esempio potremmo introdurre anche un'etichetta di questo tipo, cioè capire se alcuni prodotti vengono in questo caso dai territori occupati, ma magari si potrebbe fare altro, lo stesso con altre zone di guerra, da cui magari uno decide di fare un suo boicottaggio personale e non comprare un prodotto che viene prodotto, viene da quelle zone. Credo che sia purtroppo esaurito un po' il nostro tempo. Carmine Lauricella in regia, che mi ha tenuta nei tempi fino adesso, mi fa segno che è tempo di GR. Ci sentiamo, vi auguro ancora un buon sabato dopo questa rassegna italiana e rassegna europea, e vi do appuntamento a domani per la rassegna dei quotidiani italiani. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa in collaborazione con Euronet Plus.